Saddam, conti soldati e tutti sani, che legge nel Corano e sogna in pane e salam. Saddam, ma cosa vorret fam, vorret forse copam. We have breakfast, we have cookies away.